1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hola, hola. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 3. 1, 2, 3. Hola, hola. Sistemando la modulazione di questo apparato, io avevo un po' di problemi, sto provando col trimmer interno, mi sto ascoltando con l'altro apparato. No, io sono qua, stavo facendo alcune cosette, non c'è problema. Come ti sembra che stia uscendo? Benissimo, senza problema. Ma la radio la senti bassa oppure va bene così? In un microfono normale? Bene così, dai, ti ringrazio. Sì. 1, 2, 3. Hola, hola. Oh, non ti sembra troppo compressa? O comunque ha un po' di sfrigolino? No, io non sento niente, va bene così. E ti ringrazio, caro. Claudio, non vai al mare. C'è una bella, si sente un po' di arietta. Di maestrale ci deve essere. Normale, no, non la moglie di Carlo. Non la moglie di Carlo, anche se non la prenderò qui mi riposo. Uscirò stasera al fresco a fare un'altra passeggiata. Tirati su che ti sento un po' troppo scoglioni. No, non ho nessun problema, sono stanco. Forse sta caldo. Soffro un po' io di queste cose, ma non ho nessun problema, ti ringrazio, non ti fa a posto. Sono un po' stanco fisicamente, mentalmente, capito? E lì la cosa migliore allora è vacanza, una sola parola, prendersi un po' di ferie, quando te le prendi? Finisci un altro, non ho già bocciate, le ho chieste se me la davano a metà, appunto dal 15 in poi di luglio fino al 30, e poi agosto non ci sono problemi, c'è molta calma, quindi lavoro tranquillo, non c'ho problemi, non una bocciata. È bello questo, complimenti alla ditta, come suol dire. Quindi quando te le prendi? A settembre per forza. Non ci aspetto, vediamo se si sblocca qualcosa, perché tanto non mi piace parlare qua, non ci vediamo, te lo dico. Ma con i carichi che ho non ho sostituzioni, capito? Oh, immagino, sì. Poi in radio è meglio non parlare di queste cose, assolutamente. Infatti, già ci siamo capiti, quando ci vediamo. Pensavo salire stamattina a prendere un caffè. Non mi trattengo molto perché non mi piace più stare al bar come facevo prima, anni fa, capito? Stavo in compagnia magari, sai, parlando, facendo una birretta, non mi va più. E quindi vado a prendere un caffè, piatto alle segni, mi prendo un giornale, sigaretta, che c'è tutto lì. E poi me ne rientro a casa, sto una mezz'oretta, mi metto a parlare con qualcuno, stavo qualcuno. E poi me ne rientro a casa. Niente, spero che me le diano, come ho chiesto, per il momento mi hanno sospese, non bocciate, sospese, andate a stabilire, adesso vedrò di terminare tutti questi lavori che ci sono da fare, poi bussare nuovamente, se mi danno, perché sono veramente stanco, bisogna riposarmi un po', se no scoppio. Si sente, assolutamente. Beh. Sto uscendo, sì. Poi alla grande, dopo più 30. Immaginati quando avevi la antenna da regolare di 9 finti, adesso sei 9.30 radio 5. Aspetta, però, adesso sono in un altro QTH. con antenna accordata, sempre con quella porcheria delle cose ZG, però sicuramente qualche stazionaria in meno ce l'ho, perché adesso ne ho una, uno e mezzo, dai, neanche due arriva. Un e mezzo, vabbè, sì, al limite, però se tu fai scendere ancora. No, negativo, non mi sono espresso bene allora, non è 1,5, è 1, 1 e mezzo. Ecco, 1 rapporto a 1,5, quindi praticamente poco più di 1. Kappa Roger. No, sono, se ti ripeto, sono dei giocattoli, sicuramente per te ancora di più, però rispetto al prezzo che hanno questi Intech, che sono usciti questi M120 Plus, sono davvero, hanno delle prestazioni ottime. È vero, è vero, ma già viaggia. È lì in quella radio ci vorrebbe un bel microfono da tavolo, vedrai che ha risolto tutti i problemi, perché il segnale è molto forte. Aspetta un attimino che lo mettiamo, ho sempre quell'MB più 5, però secondo me c'è qualche problema, perché o è forse le batterie che si stanno scaricando, perché per un attimo non fischia, dopodiché rinnesca di nuovo. Adesso non so con questa antenna se lo faccio di nuovo, perché anche questa ha il problema che quando l'ho messa su gli ho allargato la molla. Aspetta un attimo. Allora partiamo da, siamo da 4 5 6 8 8, due sono un po' costano, un attimo schiacciando, avvicinare va benissimo, ti fica un bello. Sono 9, e mi ci fischia un po'. No, non la fischietta. Okay. quindi lascialo stare così, tieniti quella posizione come riferimento, tono 2 e micchi a 8, va più che bene. Claudio, guarda che tu hai l'FM e tu sei in AM. In FM? Ma sei in AM tu? Con due apparati ed ero rimasto con uno in FM e uno in AM, sì. Adesso sì, in AM. Guarda un attimino come mi ascolti. Sì, sì, benissimo. Hai sempre lo stesso microfono a 8, quanto ce l'hai? Non ho dovuto scendere a 6 perché fischiavo. Ma infatti ti sentivo male, ho detto fai un passaggio perché ti sentivo male, perché l'altro ce l'ho coricato e aperto, capito? E ti stavo ascoltando invece con l'altro che era in AM, cioè era senza antenna e c'aveva un cavettino attaccato. Io mi ascolti anche se antenna, ciao Antonio Forchetta. E non so perché lo sentivo bene, la buona notte radio. Per carità. Allora lasciala sì, con le tonalità 2, va bene lo stesso. Tu bene lo senti Forchetta? Sì, lo sento bene, ma poco altro passavo dei passaggi, mi sono spostato in FM, lo sentivo bene in FM, in AM, niente, ho detto, allora senz'altro Antonio Grotte è in FM, gamba gamba, dai. Sì, tutto sommato lo sento abbastanza bene. Aspetta allora che facciamo un attimino la prova con quello normale adesso. Grazie. Fai, già non c'è problema, già siamo qua. Addirittura lo sentite bene, la AM e l'FM. Sì, questa radio che sto usando non è che ti ascolto lo stesso, ma sentivo la modulazione un po' gracchiante, infatti stavo cercando di regolare il microfono, però non mi sono accorto sinceramente che era in FM. Immaginate che stavi arrivando qua a bomba, stavi arrivando a bomba e c'ho un pezzo di cacciavite infilato in quello senza antenna. Lo sentivo bello, pompante, sparate, era e mera. Tutto grazie a nome. Va bene, va bene. Ti stavo dicendo, stavi arrivando a bomba, tu immaginati che avevo un pezzo di cacciavite infilato dentro il baracchino, quello dove ti sentivo, Claudio. E cappa, ma anche a te, aspetta un attimino, fai bene avanti. Gappa, gappa, gappa, vabbè, siamo un tiro di schiocco con quello dietro, non sarà quello il problema, gappa, gappa. Sì, arrivate a bomba tutte e due, assolutamente, assolutamente, aspetta, giro questa vite a vedere se succede qualcosa. Così è peggiorato o sta migliorando? 1, 2, 3, 1, 2, 3. No, peggiorato. Allora la riportiamo indietro, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, guarda così. Sì, va bene, vai, va. Non posso farti una domanda, ma cosa stai toccando, l'LC o il modulatore? Il modulatore interno all'apparato. Ah, praticamente è quello che regola la modulazione qui nel baracchino. Spero che non stai toccando 140. Stai scherzando? Va bene che il 140 ce l'ha la vite per il modulatore, perché è quella vite che dovresti, cioè quel trimmer che dovresti chiudere a seconda che metti un microfono amplificato o usi il mic normale. Io ce l'ho sempre aperto. Del 140 ce li ho tutti aperti quei trimmer io, ma non ho nessun problema, anche se inserisco l'MC60 va bene lo stesso. Da 140 perché altrimenti ti sfasa la modulazione in banda laterale che ha più spinta e te la manda in distorsione, non ci tocca mai. No, non mi permetterei assolutamente, finché sono questi apparati qua che costano una miseria, va bene, poi una vite sto toccando, cioè un trimmer sto toccando, un altro lo posso riportare, siccome me lo sono testato prima, quindi so esattamente come l'ha messo alla casa madre dall'inizio. Ho capito. No, che molti si mettono a toccare come è successo a Luca Flipper. E poi ci ho messo 20 giorni per poterlo parare tutto quanto, perché era tutto completamente serato. E messo qualcosa a Falchetto. In tilt è andato Luca Flipper. so dove mettere le mani, si fa, quando non lo sai è meglio non toccarle con le radio, perché sennò sbagli e rischi di fare veramente danno, tanto danno. E poi è un problema rimetterlo a posto, perché il centro di assistenza si fa pagare, ed è un casino, capito? Comunque, non ci stanno problemi, va bene così. Avanti, Falchi, dove sei andato? Adesso è a posto, adesso è a posto, gli abbiamo messo a posto quella pompa sci del motore del gommone, abbiamo messo in marcia, dentro la tabulana, tutto ok, tutto positivo, abbiamo messo in moto, abbiamo cambiato le candele e tutto quanto, dai, la cosa è abbastanza positiva. Adesso, non so se domani ci faccio una scappata, proprio a metterlo a bagno, a vedere un po' come si comporta. Cambio. Quanto è costata? Nulla, gratuitamente. Me la sono fatta io perché me l'ha data di una pompa di un altro motore, me la sono fatta io in poche parole, capito? Quello è il prezzo migliore, è quello, guarda. Sì, quello è il prezzo migliore. No, ma non è al di là del fatto del denaro. Lui mi ha dato proprio la guarnizione che ci va per che ci va dentro la pompa C, che è una guarnizione molto speciale, non so, quelle guarnizioni rigide, capito? Sono delle guarnizioni molto. La membrana ha bisogno di, quando pompa la benzina, di avere quella vibrazione giusta sua, capito? Beh, me l'ha data, gliel'ho adattata, me la sono fatta io. Ho visto che si è comportata bene e adesso la vediamo a bagno un po'. Camparoglia, adesso bisogna solo pescare. Esatto, adesso il problema è riuscire e cercare di buttare il parametro e vedere un po' se tutto roger, se va bene, se no pasciscia. A quanti anni lo stai facendo? Ne uno da un 200 ave, dai, più o meno. Ma ricordati, te lo sei fatto il permessino, sì? Fatto, dimenticato. Fatto e fatto fare anche gli altri. No, perché sai quanta gente sta uscendo così, ma anche dalla riva si mette e butta una lenzetta e li stanno castigando di brutto, eh? Sì, no, ma queste cose le abbiamo già fatte da prima. Quando è uscito la legge abbiamo già trovato l'inganno, capito? Che poi hai visto, non costa niente, l'unica cosa ti devi registrare lì sul sito internet, scaricarti il permesso e fa ridere. Secondo me l'hanno fatto per fare un censimento e un domani quel permesso non sarà più libero e lo faranno pagare. Questo è poco ma molto sicuro. Vai, vada, qua. Ehi, dai, io vi saluto per la pranzo. Se coincide ci sentiamo stasera. Ciao Antonio Robbe, ciao Antonio Falchetto e chiunque fosse in ascolto qua su canale 5. Vado a pranzo, ci sentiamo più tardi, ciao a tutti, riprendi Kappa, ben sentito, ben ascoltato, buona carica batteria e ci sentiamo alle prossime stasera se coincide, dai. Falchè, ne approfitto anch'io e vado a fare un po' di carica batteria e ci sentiamo con te lo stesso stasera se ci sei. Ciao ciao. Ok, dai, ne approfitto anch'io, carica e vi saluto tutte e due, tutta stasera se coincide. Falchè, dove sta salutando? Ciao ciao ciao. Ciao. Ciao a tutte e due stasera, ciao ciao. Ciao ciao ciao. fai un altro passaggio a vedere. 1-2-3, guarda, ricordami dove sono le tue coordinate, quali sono le tue coordinate? Sono troppo, dottore De Sassari. Però la radio prima era molto più forte, capito? E penso di mezzo punto anche di Santiago. Adesso aspetta che giro un attimino il trimmer e la rimetto esattamente come la prima. Testo un attimo e ti dico. Oi oi. Sembrava Luca. Sono io che è una persona con cui mi devo scusare, ma allo stesso tempo non so per quale motivo. Aspetta un attimo, Vito, un attimo che arrivo. Vittorio John. Negativo. Vittorio. Sono un altro Vittorio. Comunque buonasera. Buonasera. Buonasera anche a lei, signor Gigi. Io sono Vittorio Volpe. Già una marea di tempo non ti sentivo. Una marea di tempo. Ehi capo. Perché non è sempre che ho tempo di sfruttare in questi giorni, mi sto districando a accenderlo perché sta facendo caldo e quindi sono costretto a rinchiudermi dentro casa, perché io abito fuori città e quindi in campagna c'è quasi molto caldo. Positivo, io per anch'io diciamo che sono in periferia tra poco del Sassari, anch'io sono, prima era campagna ma adesso si sta un po' salendo la campagna anche qua, dai, no, passa. Mi sa che era per tutto così, qui è diventato già un paesino dove sono io, prima eravamo quattro case, adesso ce ne sono centinaia, sono attorniato da, ormai è diventato un paesotto. Positivo, positivo. Antonio, ci sei? Il trimmer, non c'è l'apparato aperto, Antonio. Ci viene Antonio a fare questi lavoretti, però noto che ha una certa domestichezza comunque, perché provo a rifare, eccetera. Non vedo toccare molto il trimmer e poi iniziano a stararsi sì, non bisogna toccarli molto e poi... Vabbè, lui forse sta quello della radio, LC, sta toccando quello lì forse. Aspetta un pochettino, scusatemi un attimino, 1-2-3, adesso dovrei aver portato tutti e due gli apparati con una radio di 5 e un Santiago di 9, ti dovrei arrivare, dai. E la radio è aumentato, ma io ho capito che è sempre con la stessa radio, o era una radio gemella, ho capito, no, poco fa ho capito che tu stavi provando con la stessa radio, avevi toccato solo il trimmer. Negativo, allora innanzitutto saluto Vittorio e poi parliamo un attimino. No, allora ho due radio gemelle aperte, stavo toccando modulazione, dopodiché potenza sul finale, è un trimerino che c'è vicino al finale, puoi leggermente aumentare la potenza. Positivo, quello l'ho capito, ma questa adesso quale radio è questa? La prima mi hai fatto ascoltare o la seconda che tu abbiamo fatto a promettere troppo che era più bassa, questa mi sembra la prima. Sono negativo, questa è la seconda, che ho riportato, se mi stai dicendo così, come la prima. Certo, è come la prima, stesso segnale, stessa radio, è identica, è gemella adesso. Perché cosa ho fatto? Ho preso il, come si dice, il tester, ho misurato quanto ho girato il trimmer e adesso l'ho riportato sull'altra, precisa identica. Se va bene, lascio così. Sì, ma vabbè, la potenza è aumentata appena perché il segnale è stretto identico gemello all'altro. Ma cos'è che ha aperto anche la radio delle 5? Cos'è che ha aperto un po' di radio, gli ha aperto? Negativo. La modulazione era la stessa fin dall'inizio, la radio. Poi come ho aperto leggermente la potenza, evidentemente si è aperta la modulazione. Sì, però io direi di non toccarla, perché per me va bene così. Adesso è gemella all'altra, perché precisa identica, la modulazione, la radio è aumentato. E anche di mezzo punto il segnale, non è 9, è 8 come l'altra, attenzione. L'altra era 8 e quando modulavi ci avevi dei picchi, leggermente si avvicinavano al 9. Capito? E così è questa la stessa cosa, però io te la guardo bene, farò un altro passaggio con questa. Adesso come hai, aspetta, adesso come stai parlando, in un attimo ho cambiato tutto e dovrebbe essere, guarda, questa è la prima di nuovo. La prima radio? Non comprendi più, dai, cos'è la prima? Questa è questa è la prima. Uguale? Sembra uguale a me. Pacca, provi, allora li ho gemellati, diciamo. Neanche tu, gli ho detto come ti sembra, a me sembrano uguali come radio. Sì, le radio sono uguali, ha aumentato sull'altra modulazione un pochettino di segnale, ma tocca roba. Come radio sono uguali, però io preferisco sempre quella modulazione telefonica, attenzione, non quella sofisticata con aumenti di compressione, non servono a niente tutte queste cose. Ok, qua non c'è niente, se non un attimino, il microfono è normale, quello di serie non ha nessuna amplificazione, ho toccato solamente la modulazione, gliel'ho aumentata e dopodiché sono andato a gestire la corrente del finale. Ti voglio dire una cosa, quanto sei distante dal microfono, adesso che hai fatto con tutto un apparecchio, come distanza? Forse un po' poco, adesso guarda un attimino se è meglio, cioè dammi una differenza fra così e così se è meglio. La prima era migliore, però meno potente, cioè non so a che distanza è, se sei a 10 cm o 20. No, così sono a 10, così sono attaccato. Lontano è meglio, perché assume meglio il microfono da lontano, diminuisce un pochettino la modulazione, però è un po' più chiara da lontano. Se rientro nella cosa, cioè le devo di nuovo settare tutte e due, guarda un attimino, così comunque dovrebbe andare bene, dai. Sì, così va bene. La modulazione, ricordi, più ti avvicini al microfono, più tendi a distorgere, è un fatto naturale, non si può fare niente. Non si possono regolare queste, perché i microfoni sono fatti con una sensibilità che bisogna purtroppo parlare a una certa distanza e non attaccati, come ad esempio molte volte io nel viso tra i visi e hanno le labbra attaccate al microfono. Ma distorce tutto. Che cosa credono? Di parlare meglio attaccandosi le labbra al microfono? Se sono microfoni amplificati, no, è sbagliatissimo, deve essere più lontano, ma anche oltre 10 cm i microfoni amplificati, tipo il microfono a tavolo deve essere molto lontano, se parli vicino fa la cosa brutta, ma un microfono, se tu metti una radio, un microfono amplificato, parlare amplificato no, deve essere lontano, perché invece con un microfono proprio normale, semplice, è poca la differenza se ti avvicini modulando, capito? Non cambia quasi niente, capito? Beh, se ti attacchi alla bocca, giustamente sì, però se non amplificato no, manca, deve essere lontano almeno 20 cm da te, 20 o 30 pure. No, ma questo infatti, guarda un po', questo qua dovrebbe essere amplificato e dovrei uscire, aspetta un attimino per vedere fino a dove arriva sfischiando, innesca, va bene. Così dovrebbe uscire bene questo qua, guarda un po', 1, 2, 3, 1, 2, 3, prova. Ecco, prova a avvicinarti un po' la, di più. 1, 2, 3, 1, 2, 3, prova. Questa è quella a cui dovrei cambiare, mettergli con la capsula microfonica del Sirio, perché questo è un MB più 5, se gli metti quella del Sirio è una bomba. Ah, quello non deve avvicinare nulla, no, quello devi essere lontano. Quello non un microfono, bisogna parlare lontano, devi allungare solo il braccio, schiacciare, non ti devi avvicinare su quegli apparati lì, su quel microfono lì, quello bisogna parlare proprio lontano, perché sennò la cosa fa male, la voce invece è brutta. Vedi come ti sembra che stia uscendo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, prova. Chiara, perfetta la modulazione, molto buona. Amplificata comunque? Non è molto amplificata, sembra normale, proprio una radio normale sembra. Tipo, non sento molta amplificazione io. Questo è male, però il problema di questa radio qua, dovrei abbattere i toni così, però inizia a fischiare. Ma è un problema di batteria questa qua, gli devo mettere un'altra batteria, perché come gli do un attimino di potenza inizia a fischiare, vedi, perché potrei aprire di più e qua fa casino. No, comunque va bene così. Quando vai a aumentare un pochino, tende leggermente a sentirsi un rumore sottofondo o come alternata dato, devi cercare di eliminare quella, allora sì, probabilmente anche dovuto alla batteria, prova a sostituire la batteria. Ah, cambiare la batteria? Aspetta che adesso sta in scambio di nuovo. A cambiare la batteria hai detto? Sì, perché quell'alimentazione è evidentemente è poca e quindi non riesce ad assumere diciamo l'integrato, riesce ad assumere un'alimentazione buona, perciò va leggermente a digerirsi questo sottofondo. Scusate un attimino, sta chiamando mia moglie, le prendo subito. Zappa. Stavo dicendo, il problema è che questi baracchini, se li setti per un microfono, non vanno bene per l'altro, nel senso che sono nati con una modulazione microfonica normale, molto bassa. Quindi se vuoi usare il microfono di serie, devi per forza aumentare la modulazione attraverso il trimmer che stavo girando prima. Nel momento in cui lo aumenti però non puoi più utilizzare i microfoni amplificati, perché come utilizzi i microfoni amplificati o lo tieni bassi così e quindi è al pari di usare l'altro, oppure devi riabbassare tutto e rialzare, allora ti permette di alzare l'ala qua. Ecco, ad esempio, in questo passaggio c'è trascinato dietro, sottofondo, una specie di suono che se lo trascina, lo assorbe proprio il microfono questo, che c'è troppa amplificazione, oppure si sopra meno alimentato come tensione. E quindi lì bisognerebbe fare un bilancio. Allora, prova a sostituire, a metterci una batteria nuova, oppure se hai un alimentatore, non so, che cos'è, 9 volt sul microfono, com'è? Sì, ricordo a 9. E allora vedete, ti costruisci come ho fatto io, un alimentatore, naturalmente deve essere, questo che ho io è l'artigianale, e ha 7 volt e mezzo anziché 9, però l'alimentatore ha 1 ampere, mi segui? Quindi è già potente. Allora io ho dovuto fare una modifica a diminuire il voltaggio anziché 9 a 7 e mezzo, ed è perfetto, e questa è l'alimentazione giusta. Secondo te è sovralimentato? Sì, secondo me sì. Ascolta, ma ricordami, a te invece come sto arrivando, come segnale, come radio? Il mio è 9, il segnale è 9 pieno, la radio è sempre buona, però quella prima, parliamo di 5 minuti fa, era una modulazione più bella, la radio era proprio telefonica. Adesso sembra che stai parlando dentro un barattolo, Alto. Ma perché non riesci a gestire questo microfono amplificato? Quindi è meglio con l'altro, cioè ti faccio la differenza fra questo. E guarda questo qua, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Che è quello col microfono originale, però che gestisce meglio l'amplificazione adesso. Perché non è un microfono amplificato, però dandogli di modulazione riesco a ottenere qualcosa di più gradevole. Sì, la radio ha migliorato parecchio, però se stai trascinando sotto un rumore di sottofondo, tipo come se stessi sovralimentando qualche cosa, o l'amplificazione o l'alimentazione, quindi dovresti leggermente diminuire, per diminuire quel sottofondo che stai trascinando. Mi dici che il rumore c'è sempre, sente questa specie di rumore di alimentazione eccessiva? Sì, un rumore proprio di alimentazione secondo me, è un disturbo, capito? E quindi questo rumore è dovuto o alla sovralimentazione o a un rumore che ha sia il microfono che si trascina lui stesso. Prova leggermente, perché tu devi fare, stai facendo dei giochettini col trimmer, prova a muoverlo e io poi ti dico se muovendolo ti fa meno o più. Guarda così, un attimino abbasso leggermente, non è la modulazione ma l'alimentazione del... Allora, guarda se così va meglio. No, c'è sempre. Un attimino, se così va meglio, 1, 2, 3, 1, 2, 3. No, sempre uguale. Ma se così va meglio? Negativo, sempre uguale. Aspetta, allora agisco su questo. Innanzitutto riporto questa, guarda se la potenza risale un attimino. Sì. No, la potenza è sempre uguale. Aspetta che adesso scendo proprio la modulazione, così? Hai avuto uno sfratto di aumento di radio amplificata superiore, però il rumore fate sempre questo. Negativo. Sempre alimentazione, questo rumore qua. Sì, il rumore fa capito. Non so cosa possa essere. Non so cosa possa essere. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'è sempre, insomma. No, no, ma tu non sei questo stare. Sì, ma a dirti la verità non lo sento io. Ma io lo sento però, io sono in cuffia. Aspetta che provo a mettermi in cuffia anch'io un attimino, vediamo. C'è un rumore, come te lo posso spiegare? È un rumore sottofondo, è come che gli manchi una massa a questo apparato. In un secondo, attenzione Gigi. No, tu non ci sono Gigi che valgono, io lo sento, c'è un rumore sotto, la radio è perfetta, è benissimo, però ti stai portando dietro un rumore di sottofondo, una specie di rumore, capito? Rumore di alimentazione, sensato qualche cosa che non sta andando bene. Perdonami un attimino, c'è una bassa, e dammi 2 secondi di bianco. Ciao. Prego su 5. Gioia. Prego su 5. Attenzione. Giulio. Chi è che chiacchiera? Chi è che chiacchiera? Buonasera, da questa parte del vicino. Giulio, ma è tu scelto, per favore. Non c'è Giulio Leoncini? E chi sei? Io sono Victor. Vabbè, comunque buonasera. Ascolta, dammi un controllo, come sto uscendo? Radio buona, segnale basso, 7. Ma che zona stiamo usando? Leoncini, ci siamo sentiti altre volte, sempre in zona Monteoro. Ah, vabbè, già, vabbè, dai. Ok, cosa mi racconta già di bello? Comunque Leoncini, complimenti perché il segnale è aumentato notevolmente. Hai fatto qualche cosa sul tetto? Calma, ho riparato quella questione là e ho aggiunto un pezzo di tubo attaccato al muro, capito, cambio. Beh, adesso almeno ne vale la pena, cazzo. Prima eri un disastro. Vuol dire che l'operazione del dottore è uscita bene, cambio. Cambio, ti grido. No, si è andato bene, dai, questa volta qui sì. Segnale di 7, buono, la radio è bella amplificata, potente insomma. Ti ripeto, mi sembra strano, ma non per mettere in dubbio l'esito, perché davvero non saprei da dove, cosa dirti. Non so, perché adesso sto usando i cingoli, capito? Sto usando i cingoli. Guarda, ti senti anche se non muri, c'è la sottolata, se non c'è la sottolata, se non c'è la sottolata, se non c'è la sottolata, se non c'è la sottolata. Sì, ma certo, ma che è? Ottimo, sono le due toppe. E che problema che c'è? Abbiamo un contesto con Antonio, siccome lui quando esce in radio si sente un rumore sordo. E calma, l'hai sentito Zebra, vai, qui volve da Sassari, Monte Oro. No, la radio di Antonio, dicevo, già si sta trascinando dietro, ma non credo sia una questione perché ci avvicinano all'alimentatore, perché prima non ce l'aveva e non credo che abbia portato l'alimentatore. L'alimentatore è arrivato sempre allo stesso punto dove era. Questo rumore di alternata se lo ha trascinato, perché io a mio avviso quando cominci a toccare, trainer eccetera eccetera, poi si creano degli scompensi e praticamente gli apparati sono tarati, non è un rimprovero perché allora già ci conosciamo, però quando cominci a toccare così magari si crea uno scompenso e anche uno saramento, se vogliamo dire questo termine qui. KK, già ho sentito che stava aggiustando dei trim, non so cosa stava facendo. Comunque, secondo me, quel rumore che sentivi era la ventola del trasformatore. Non mi vorrei sbagliare, ma adesso vediamo, adesso lo sta svoltando, vediamo un po' se lo fa ancora. No, perché la ventola, quando c'è una ventola, io dico, cioè, la ventola qui del generatore, anche se sono anche se è stato ricordato che c'è un po' di odore. La senti? Guarda, io sono sentito, guarda, adesso mi avvicino. Ecco, adesso la senti, mi sono mostrato, ma non si sente più. Ma il rumore della ventola, si sente che il rumore della ventola? Quello è un rumore, cioè capito, non è una questione di alimentazione che sta arrivando errata, sia dall'apparato oppure il microfono che ha bisogno di più alimentazione o viceversa. No, che si è passato il radio, non si è tolto, KK, adesso mi ascolti. Niente, c'è qualche problema, se c'hai le cuffie sicuramente tu le ascolti di più. Beh, io non sono le cuffie, io ascolto sempre le cuffie, non mi va vale a sentire l'altoparlante molte volte, sovramondano, in cuffie è più sensibile, quindi si sentono questi. Io non so se dovessi avere rumori di sottofondo. Questo è un microfono normale con un apparato digitale reverbero, però soprattutto non per il reverbero. KK, un attimo di bianco che mi stanno chiamando, un attimo. Ok, a te Leo. Ehi, lascio qua. Io per me o sarà il filo della massa che non è collegato bene, oppure ci avrà qualche problema con il cavo del microfono. Ma curati che il microfono mal alimentato, non lo so, io ho detto cambia la batteria, fai qualcosa. Oppure può essere anche l'alimentatore che vuole avere qualche compenso all'interno, perché sono tante le cose, l'antenna non può essere perché deve escludere. È una questione di microfono e apparato, basta. Quindi una volta che tu controlli queste cosettine, ma controllate bene e accuratamente, credo che regolazioni, siccome stanno cercando di controllare qualche cosa, mi ricordo che ci sia successo qualche staramento, a mio parere, perché in questi apparati è inutile toccarli. Sì, se uno è bravo, se ne intende, io ma non so che si diventa, gioca, eccetera. Però molte volte cosa succedono questi compensi qua e ti ritrovi con questa roba qui che disturba. Non so, diciamo che gli apparati, io ho avuto un problema di apparati, me l'ha sempre controllati, è venuto qua, oppure sono andata con la sua, Alessio, Antonio, me l'ha sempre controllati lui, e stanno funzionando bene, grazie a Dio, non ho avuto mai quei problemi, sto volando adesso con questo apparato che, diciamo che non è tanto lungo, però già funziona. Ehi, capo, E va, ad esempio, anche io ho avuto un brutto esperienza, un amico un giorno mi ha detto che guarda, quel pippi non lo posso vedere, bisogna che se lo tolga, odiamo i tipi questo qua. Io mi sono fidato, gli ho dato l'apparato, è venuto qui a casa, si è messo toccando un sabbatone, diciamo da poca cosa, interrompendo con una pinzetta microscopica certi diodi, certe cose, poi una chiamata qui, sì, l'ha tolto e non l'ha tolto, però poi a un certo punto, come avete detto, mi si è spento il frequentimetro, poi si è sfondata la barriera del meter, praticamente ciò c'è soltanto la cosa del canale, ma ha rovinato tutto quanto, l'ho fatto usare, non si mai. La parte funziona tutto quanto, però è tutto nel buio, poi le bande, la banda del canale, devono portare le corse per centrare, guarda, è un casino. Cazzo, veloce, cazzo, veloce, beh, sì, pomeriggio, questo questo, ognuno ha il suo mestiere, è un peso, ognuno ha il suo mestiere, dunque, se tu sei bravo a fare le cose dell'elettronica, e non puoi fare le cose delle, come ti posso fare l'esempio, del barista dietro un banco, capito? Esatto, però dico io, se uno fa il radiotecnico non è elettronica, l'elettronica è una cosa, la radioartistica è un'altra e la radio TV è un'altra ancora. Sembra che siano uguali, invece sempre elettronica è no, i circuiti sono diversi, ci vuole esperienza per lavorare in determinati apparati, è necessario che tu abbia fatto un corso apposito per quel tipo di apparato. Uno che fare televisori non può imparare le baracchine, a mio parere. Questo è quello che riesco a capire. Io non so se tu sei di questo parere. Ognuno sa il suo mestiere, tutto quanto, e giustamente quello che ti ho detto, ognuno se non sa fare, non lo tocca e lo lascia, lo porta a chi è competente, capito? Purtroppo molti si improvvisano oggi a fare queste cose qua, però c'è un'esperienza, non si può improvvisare, c'è gente che ha fatto il corso qualche anno fa, l'Elettra, non so, della Svizzera, mandavano di Spence, ma come fai tu a fare un corso per via corrispondente? Ma non esiste, ci vuole una scuola, e come tu vuoi andare a fare, a imparare la musica a casa, la musica deve andare in conservatorio per fare la musica, ti insegnano per dire tutte le cose che devono insegnare, a casa cosa fai da solo? No, non è rientrato ancora, ma molto strano che sia stato così. siete sotto. Secondo me non era la ventola, perché voi, se fosse la ventola come si parlava, bastasse spostare l'alimentatore su un altro posto, un metro di distanza e si provava. Capisci che è un rumore diverso da quello che dovrebbe essere una ventola. sentito? Ma questa che l'ho sentita che è una bella ventola, si sente abbastanza. Aspettate un attimino, lei mi sposta un attimino, voglio vedere una cosa. Sei tu. Hai cambiato anche il microfono? Certo, tutto. Adesso sto modulando con un altro apparato grande, e non con quelli due piccoli che stavo usando prima. Mi sembra strano che abbiano lo stesso difetto, capito? Quindi non è difetto dell'apparato, è difetto della corrente che sta entrando. Ma che c'è, non so, la corrente, che c'è la tensione della 220, può... Non so cosa dirti, non so cosa dirti perché qua non c'è attaccato altro. Non c'è attaccato altro in questo momento. Ma secondo me è una questione di alimentazione, secondo me. È molto fastidioso comunque, no? No, si sente, allora la modulazione si sente al 70%. Il 70% si sente con l'onore. È chiaro che la modulazione non lo supera con l'onore, però si sente, da sotto si sente. No, da te non si sente, sai perché? Perché viene annientato da altre sovrapposizioni, non è un segnale pulito, perché se tu arrivassi a 9 come segnale, allora sì, siccome sei il 7 e ho del C, quindi ci sono altri disturbi di altre modulazioni che non mi fanno sentire, non è un segnale nitido. Sì, però sono spiegato che lì non si, devi qua, se mi arrivi a un segnale di 9, elimini tutte le altre modulazioni, allora sì che si sente, capisci cosa voglio dire? In questo caso, siccome ci sono altre modulazioni che arrivano con il segnale di tuo, e confonde la rumorosità del tuo del tuo rumore che stai procurando dal condizionamento. Non so cosa dire, non so davvero cosa dire, ma è comparso a un certo punto, mi stavi dicendo, Vito? Non ho capito. Una cosa che è comparsa a un certo punto? Sì, è comparsa perché prima, quando stavamo modulando con Gigi Vulcano, non c'era. Poi hai toccato, ho fatto, gli ho detto, aspetta che faccio il mio momento, cambio la cosa, lì è apparso questo rumore qua e da lì non è più stato apparso. Il problema lo sai che cos'è? Che ho cambiato tre apparati, non so cosa dirti. Cioè, sto modulando con tutt'altro apparato, quindi non dico che sembra quasi impossibile, ma non saprei davvero a che cosa accomunare la cosa. Ma hai provato a cambiare il microfono, adesso che microfono sei usato? Hai capito, ho proprio cambiato apparato con un completamente microfono diverso. Niente, c'è sempre quel rumore di fondo, è un rumore, non è di ventola. Secondo me non è un rumore di ventola, la ventola è tutta un'altra cosa. La ventola è questa, guarda. La ventola fa un mu, è un mu, è una mu come dito. Lì è un rumore, è una R, è un motorino. Aspetta un attimino, scendo a casa e controllo, perché io sono nel coso di su, capito? È ok, già sono qui, già. Yeah. Chi era questo via? Così è sempre uguale, la senti sempre. Sì, Antro. Oh, Ok. Prova. Ok. Sì, Marco, è amore. Provincia di Taranto, da questa parte provincia di Sassari, anzi Sassari City, modulatore Antonio, stazione Grodde, vieni avanti. Fabio, da Martina Franca, stai arrivando una bomba, sei un Santiago di 7, una radio di 4 oscillante a 5 qua, Fa uguale, lo stesso segnale. Cappa negativo il passaggio adesso, vieni avanti Vittorio, se riesci a sentire l'amico che inizia a alimentare con quella cosa. No, negativo, non l'ho tolto perché boh, è oscillante. Ho capito che stiamo andando alla Martina Franca, ma non ho fatto più che altro. Ci sono molte modulazioni nella tua zona, l'amico di Martina Franca. Non è detto che ne resti fuori, è oscillante la tua modulation. Il positivo lo conferma anche tu, la tua modulazione. A posto, è facendo quell'intervento? Attenzione Vittorio, attenzione. È facendo quell'intervento, l'hai fatto? Negativo, non ti ho copiato. Dico, stai facendo quell'intervento? Sì, adesso non gioco la batteria, guarda un po'. Niente da fare, che sento delle maledette. So. E allora, questo qua è un... È un problema che non deve essere dell'apparato, deve essere nella situazione in cui mi trovo, capito? Cioè o c'è un campo elettromagnetico, non so cosa dirti. È probabile. Che devo dire la verità, qua è pieno di calamite al neodimio, non so se sai cosa sono. Sono delle calamite particolari ad alta potenza, però non so cosa dirti, boh. Può essere solo quello, guarda. Prima non c'era. Evidentemente come ho spostato la cosa. Guarda, adesso faccio una cosa, prendo il tutto e me ne vado fuori. Addirittura, sei un martire, e stasera no. No, K, adesso va risolta la cosa, aspetta un attimo. Primo. K, avanti. Sì, Aldo, ma cos'è il problema? Guarda, mi sta dicendo Vittorio che sente un'alternata. Senti un attimino se è portante muta, la senti anche tu. Oh, sai perché? Ascolta un attimino, prova perché a volte non si ha che c'è un po' di propagazione sotto. Non c'è, portate un attimo un canale che si sia libero, cioè, aspetta un attimino, e guarda se c'è un canale libero che non c'è nessuno. Ciao Paoli. Attenzione all'amico di Taranto, se compi il Nord Sardegna, avanti. Secondo me non è un problema campanello. Quindi ci siamo, l'hai detto tu, 15 finale siamo, qua il 5 normale. 5 normale, sono 18, da 5 siamo 18, ora 19, lo vedi, siamo 18, 27, 175. Io ti sento quello che stai dicendo.